moto si parla. Chiude. Un soldi e dintorni dedicato a questo. Andiamo avanti. Allora, eccoci. Colf e badanti. Sì. Colf e badanti, perché è un tema molto ricorrente dai nostri microfoni, sia a Salvadanaio, forse a soldi e dintorni non ce ne siamo mai occupati. Oggi ne vogliamo ritornare a parlare perché c'è un'importante e molto ampia iniziativa del Sole 24 Ore. Chi ha dubbi o domande sulla regolarizzazione dei collaboratori familiari o delle badanti non deve perdere oggi il Colf e Badanti Day. Dalle 10 alle 13 sarà possibile assistere in diretta attraverso il sito internet del Sole 24 Ore a un forum dedicato alla sanatoria organizzato proprio dal Sole 24 Ore e dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con la partecipazione del Ministero dell'Interno. E allora, qual è la dinamica di questa giornata e soprattutto quali sono le modalità operative dell'iniziativa e come sarà possibile per i lettori del Sole 24 Ore, per gli ascoltatori di Radio 24, interagire con questi esperti? Questa mattina ci spiega tutto Francesca Padula, la collega del Sole 24 Ore. Francesca, buongiorno, stamattina prende il caffè con noi. Sì, buongiorno. Buongiorno Francesca. Francesca sta seguendo tutto il procedimento di regolarizzazione di Colf e Badanti per il Sole dall'inizio di questa operazione che è entrata nel vivo. Francesca, poi ricorderemo anche i termini e i tempi della sanatoria, sì, partita il 1 settembre, ma prima di tutto ti chiedo allora cosa succede dalle 10.30, dalle 10 in poi. Allora, dalle 10 sarà possibile seguire il forum dal sito del Sole 24 Ore, ci sono proprio delle relazioni sui temi principali, quindi sul percorso, diciamo, per l'emersione delle colfe, delle badanti che non hanno il permesso di soggiorno, ci sono, diciamo, i nodi, gli aspetti tecnici più controversi, perché ancora ce ne sono tanti, e questo è appunto in collegamento in diretta sul sito del Sole 24 Ore, per cui collegandosi si può ascoltare le relazioni degli esperti, dei consulenti che sono al forum. Poi si può telefonare, c'è un numero, lo 02 4300 8215, con varie linee passanti, e parlare direttamente con i consulenti del lavoro per avere informazioni e chiarimenti. E questo numero, ricordo, sarà attivo fino alle 17 di questa sera. Esatto, questo è un numero, diciamo che la sanatoria è molto ampia, l'abbiamo detta a Salvadanaio, quindi il periodo è quello che va dal 1 al 30 settembre, interessa le famiglie, questo diciamo non ci stanchiamo mai di ricordarlo, perché non solo gli irregolari rischiano il reato di clandestinità entrato in vigore in agosto, ma le famiglie italiane che danno impiego a irregolari vanno incontro anch'esse a un reato, quindi c'è un'ammenda ma c'è anche una sanzione penale. È importante approfittare di quest'ultima chiamata, le domande non sono tantissime, non è il numero che il Ministero si aspettava, e quindi oggi, diciamo, è la giornata, bisogna approfittare di questa, della disponibilità di queste persone per risolvere, per cercare di appunto risolvere i dubbi e le difficoltà tecniche che ogni famiglia ha. Allora, lo stavi già dicendo, Francesca, relativamente alla, come dire, all'arrivo di domande al sito del Ministero dell'Interno per procedere appunto alla compilazione della domanda stessa di sanatoria, è un procedimento, insomma, che sta avvenendo in maniera abbastanza lenta. Le domande di regolarizzazione che sono arrivate fino ad ora sarebbero 151.700, quelle poi consegnate, quindi completamente compilate, sono circa 149.000. Abbiamo tempo fino al 30 settembre, ma rispetto a quella stima iniziale che proprio il Ministero dell'Interno aveva fatto di circa almeno al massimo 750.000 domande attese, siamo molto lontani. Quali sono stati i nodi principali che hanno impedito alle famiglie di procedere appunto alla regolarizzazione dei collaboratori familiari o delle badanti che operano presso di loro? Allora, una procedura esclusivamente telematica, questo può essere stato un ostacolo, diciamo, per molti anziani, per molte famiglie che non hanno trovato a portata di mano un computer. Sappiamo che in campo ci sono i comuni, ci sono i consulenti, ci sono i patronati che offrono tutti la disponibilità e l'assistenza gratuita, però probabilmente per alcune famiglie non è così facile questo, diciamo, la procedura telematica. Quindi proprio, diciamo, come dire, la modalità operativa, la compilazione esatto, a prescindere dai requisiti questo richiesti. Questo può essere stato, diciamo, un deterrente. Un altro problema è legato poi ai 500 euro che alcuni in molte situazioni è stato trovato comunque come una cifra eccessiva. eccessiva, che comunque è un forfè che serve a estinguere appunto questo periodo di è un forfè proprio per i contributi per il trimestre aprile-giugno 2009, quindi è una cifra forfettaria da pagare. Molti sono scoraggiati, e questo in realtà l'abbiamo spiegato più volte, dal il costo di una colf o di una badante regolarizzata, cioè una busta paga vera con i contributi, col vitto, l'alloggio, le ferie, è molto diversa da quella che in realtà è il compenso di una colf badante in nero. E questa, diciamo, il maggiore timore è questo, che questa sanatoria in realtà non cancelli tutto il lavoro sommerso che è diffuso appunto nel settore domestico. C'è anche l'altra questione: la sanatoria richiede che il datore di lavoro stipuli con il lavoratore un contratto per un orario settimanale minimo di 20 ore, e anche in questo caso è molto difficile, visto che molto spesso collaboratori familiari prestano lavoro per più famiglie, è molto difficile che un unico datore di lavoro si imbarchi praticamente di tutta la pratica, Francesca. Esatto, questo è, diciamo, l'aspetto che riguarda soprattutto le collaboratrici domestiche. Molte lavorano a ore e il requisito di questa regolarizzazione molto selettiva, forse troppo selettiva, è quella che ognuno sia presso lo stesso datore di lavoro, che deve essere quello che compila la domanda, almeno 20 ore alla settimana. Noi abbiamo molte segnalazioni del fatto che in realtà queste colf globetrotter, cioè girano nelle case, nelle famiglie italiane, 2 ore al mattino da una parte, 3 ore al mattino in un'altra famiglia, 3 ore al pomeriggio magari fanno le babysitter, lavorano 40 ore, quindi diciamo tutti le vogliono ma nessuno le può regolarizzare. E comunque, alla luce delle problematiche, delle criticità emerse in queste settimane, qualcuno sta anche ipotizzando una proroga della scadenza per ottenere più richieste. Magari di questo torneremo a parlare, Francesca. Noi abbiamo già terminato il tempo a nostra disposizione, abbiamo però i 30 secondi che ci servono per ricordare le ultime, ancora una volta, le modalità operative per partecipare al Colf Badanti Day del Sole 24 Ore. In diretta oggi sul sito del Sole 24 Ore dalle 10 alle 13 e poi dalle 10 alle 17 è attivo il numero per dialogare direttamente con i consulenti del lavoro messi a disposizione dal Sole 24 Ore per avere informazioni e chiarimenti. Ricordo io, Francesca, il numero è lo 02 43 00 82 15. Francesca, buona giornata, perché so che anche tu sarai molto impegnata oggi. Grazie, buona giornata. Grazie. Alessandro. Eccoci qua. Allora, Salvadanaio. Oggi abbiamo un bel rapporto sulle carte di credito. Pare che gli italiani ne sottoscrivano sempre meno. Pensavo parecchie. Ma noi sulle carte di credito siamo un po' indietro rispetto... Io sono avantissima invece, guarda. Sono le 8:33 minuti, eccoci qua da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano sono queste. Al vertice generale dell'ONU, il presidente americano Obama ha lanciato un appello all'unità internazionale per una nuova era di pace. L'America non può fare da sola, ha detto Obama. Nel suo discorso invece il presidente iraniano Ahmadinejad nella notte ha attaccato Israele e molte delegazioni, tra cui quella italiana, hanno abbandonato l'aula. In Italia il Senato ieri ha approvato lo scudo fiscale allargato. Dal Presidente della Repubblica nessun commento. Quando mi sarà trasmesso il testo da promulgare, ha detto Napolitano, valuterò le novità. Protestano anche i magistrati. Una frana causata dal maltempo nei pressi di Taormina ha provocato l'interruzione di tutti i collegamenti stradali e ferroviari tra Messina e Catania da ieri sera. Sul posto sono al lavoro da ore gli uomini della Protezione Civile. Infine il calcio, ieri c'era il campionato, l'Inter liquida 3-1 il Napoli, vola in testa alla classifica approfittando dello stop della Sampdoria battuta 2-0 a Firenze e in attesa di Genoa-Juventus in programma stasera. Perde il Milan 1-0 a Udine, Palermo-Roma 3-3, gli altri risultati: Lazio-Parma 1-2, Atalanta-Catania 0-0, Bari-Cagliari 0-1, Bologna-Livorno 2-0, Siena-Chievo 0-0. E allora, le 8:34 minuti, è il momento del nostro sondaggio di oggi. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, mi dicono che dai centralini sono impazziti. 800 24 00 24, tutti vogliono intervenire su anno zero. Riparte oggi anno zero e in una situazione un po' peculiare, particolare. Perché il direttore generale della RAI ha detto: trasmissioni come questa, trasmissioni contro, trasmissioni che non sono pluraliste, danneggiano il servizio pubblico. E poi non chiediamoci perché il 30% di evasione del canone della RAI c'è, sostanzialmente ha detto questo. Addirittura un paio di giorni fa è successa una cosa abbastanza incredibile. Presentazione del programma, il direttore di Rai 2, Massimo Liofredi, si presenta a fianco a Santoro e dice questo. Sono stato molto sincero, credo, perché che cosa ho detto prima? Ho detto che per quello che mi riguarda ne farei anche a meno di una trasmissione così. Mi piacerebbe più un bel confronto politico all'interno della mia rete. Questo è quello che ti ho detto ed è la pura e sacrosanta verità, in questo senso, perché tu sei un grande giornalista e mi piacerebbe vedere una bella trasmissione di politica, ma non mi piace la televisione che è contro, mi piace la televisione che sia un confronto. Anche qui, insomma, la televisione è contro, cioè ne farei a meno. Il direttore di Rai 2 dice io ne farei a meno di una trasmissione così. Ma che dobbiamo fare? È qui, fa ascolti, è un ospite che fa ascolti. Saluto Filippo Facci, buongiorno. Buongiorno a Filippo tutti. Facci, editorialista inviato di Libero. Facci, che ne pensa? Insomma, il direttore generale della RAI dice che trasmissioni così danneggiano il servizio pubblico sostanzialmente, d'accordo? Sì e no, così come sono d'accordo e non lo sono sul fatto che ci sia una novità, diciamo, in tutto quello che succede, cioè nel fatto che insomma sia stato detto da un dirigente della RAI che un programma della stessa RAI non è gradito. Nel senso che è stato esplicitato qualcosa che, voglio dire, è sempre stato pensato, è sempre stato scritto, ma appunto non è mai stato detto, non è una novità la situazione, ricordiamola, che il Santoro va in onda per via di una sentenza della magistratura, perché altrimenti non lo manderebbero in onda, e non lo manderebbero in onda perché alla RAI comandano i partiti e mediamente i partiti che prendono il potere secondo un governo o l'altro non gradiscono Santoro. Dopodiché, ecco, sul concetto di servizio pubblico possiamo andare avanti una vita a discutere, sì. Perché Santoro è tutto, nel senso che vive questa contraddizione ed è talvolta servizio pubblico, secondo me, talvolta, come dire, facente parte di una TV commerciale quando fa gli ascolti, talvolta facente parte, come posso dire, della TV e del giornalismo e della politica militarizzata di cui sicuramente lui è una parte. Fa delle cose bellissime, fa delle cose insopportabili. Senatore Pancio Pardi, buongiorno. Buongiorno. Lei ha parlato nei giorni scorsi di inquisizione nei confronti di Santoro. C'è l'inquisizione. Oggi, leggendo giornali certamente schierati politicamente, Libero, Maurizio Belpietro dice: ma insomma, il migliore inquisitore va in onda. Il Foglio, tutto sto casino, il contratto di travaglio è più complicato di fare la finanziaria e si va regolarmente in onda. Insomma, che inquisizione. Meno male che si ma va certo, in onda. Perché sottoscrivo e anch'io dico: mai la censura. Meno male che va in onda, però insomma, che inquisizione c'è quindi nei confronti di Santoro? Beh, inquisizione, io ho parlato di inquisizione in ritorsione, perché erano loro che avevano detto che era inquisitorio il programma di Santoro. Io avevo replicato dicendo che semmai l'inquisizione di solito la fa il potere, e siccome Santoro ha grandi capacità ma non ha certo il potere ce l'ha chi decide se va o non va in onda, se Travaglio ha o non ha il contratto, e per adesso Travaglio il contratto non ce l'ha, per cui li vogliono far correre sul filo del rasoio. È una forma di minaccia quella di non fare il contratto a Travaglio, per dire: ragazzi, siete sempre lì sotto osservazione. Il fatto è che in Italia, va ridetto perché la gente se lo scorda, il proprietario dei mezzi di comunicazione privati è al vertice del potere politico, influisce direttamente e indirettamente, particolarmente in questo caso attraverso il direttore generale Masi, che era con lui come segretario generale a Palazzo Chigi, influisce direttamente sulla RAI, e stanno facendo una guerra durissima a tutti i programmi critici. Non sono programmi contro, sono programmi critici che producono un sacco di soldi, un sacco di pubblicità, un sacco di audience, quindi tengono alta anche la fama professionale della RAI, però non li sopportano perché sono programmi critici. Report, come si fa a togliere la tutela legale a un programma come Report, che è uno dei vertici dell'informazione d'inchiesta? Come si fa a minacciare perfino un programma come quello di Fazio, facendolo apparire come un programma addirittura fazioso, strano. Il programma di Fazio è un programma di intrattenimento, la gente va lì, si fanno quattro risate, e diciamo è un programma. Beh, è proprio da lì che è nato poi tutta la questione, l'intervista di Travaglio, proprio da Fazio. Il programma di Fazio è un programma allegro, di intrattenimento, un po' irriverente, Cosa vogliono? Solo la reverenza? Vogliono la testa chinata, la schiena piegata? Ecco il piano, sì, ecco il piano, leggo il titolo de Il Fatto Quotidiano, che ripeto, ieri è andato esaurito, oggi è il secondo numero, il nuovo quotidiano di Padellaro e di Travaglio. Ecco il piano per distruggere la RAI, chiedo a Filippo Facci, che con Il Fatto Quotidiano non credo sia molto tenero, oggi ne scrive anche su Libero. È questo il piano, c'è un piano per distruggere la RAI, Facci? Ma viene a dire magari, perché io sono di quelli che pensa che la RAI dovrebbe o diventare definitivamente ed esclusivamente servizio pubblico o definitivamente non esserlo, e allora essere commerciale e competere con le altre TV, essere privatizzata completamente. Dopodiché quel titolo significa, in altre parole, ecco il piano degli avversari politici, di altri avversari oppure nostri, per prendere il potere, visto che al governo ci sono loro. Dopodiché io sono anche d'accordo, incredibilmente in parte, con Pancio Pardi sul fatto che questa maggioranza che ha preso il potere dentro la RAI stia assolutamente cercando di tacitare alcuni programmi. In alcuni casi lo considero semplicemente assurdo, è il caso di Report, che intendiamoci non è solo una trasmissione che fa ascolti, ma è una trasmissione comunque schierata, ma voglio dire decentemente schierata. Altro discorso è prevedere che magari alcune cose debbano essere censurabili, tipo? E sanzionabili, perché citando l'intervista che appunto ci dicevate prima di Travaglio quando andò da Fazio, per me quella fu intollerabile e assolutamente irripetibile nel senso proprio del termine. Quello è qualcosa che non deve succedere. È sempre una questione di proporzioni, anche appunto Santoro, chi è Santoro? È quello di alcune puntate secondo me ineccepibili a detta quasi di chiunque, è quello che talvolta veramente fa delle piazzate incredibili che sono solamente il sostegno di determinate forze politiche, in particolare quella di cui lo stesso Pancio Pardi fa parte. Ecco, è sempre una questione di volta per volta. Allora, 800 24 00 24 per intervenire. Dovete andare sul sito invece se volete votare, radio24.it, alla sezione bianco o nero, oppure sul sole24ore.com. devo dire che sono tantissimi già i voti e devo dire che per ora prevalgono i no. La domanda è: il direttore generale della RAI ha detto anno zero, secondo voi danneggia sostanzialmente una certa TV contro, danneggia il servizio pubblico? Per il momento il 65% dice no, non è vero, non è così. Sono rapidi gli ascoltatori, vado a Verona da Nuccia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ecco, io volevo dire a proposito di Santoro che, pur riconoscendo la sua estrema bravura, perché è bravissimo, è però non è mai obiettivo ed è distributore di odio e di veleno. E Travaglio non era meno, seppure su un altro piano. Ma guarda che l'informazione faziosa, schierata, ma schierata se dichiarata, insomma, l'ha sdoganata Giuliano Ferrara a dire si fa così, non esiste il giornalista imparziale, anzi è una finzione, Nuccia, che ne pensa lei? Comunque non si aiuta, secondo me, scusi perché si sente male, sì. Non si aiuta il servizio pubblico. È un distributore d'odio, non si aiuta il servizio pubblico. Vado a Taranto da Domenico. Domenico, buongiorno. Buongiorno. Lei che buongiorno dice? È assolutamente il contrario, ritengo che assolutamente non danneggia la RAI, anzi la qualifica, perché dà un punto di vista diverso da quello che le altre cinque reti danno continuamente, quindi ritengo che la voce di Santoro, della Gabanelli, di Fazio e di quant'altro, anzi addirittura io ci metterei anche di nuovo Luttazzi, ci metterei Rossi, non mi ricordo il nome, cioè dare la voce a quella minoranza che comunque io credo che attualmente sia qualifica la maggioranza. Va bene, grazie Domenico. Io voglio, c'è un ospite che prima di salutarlo però voglio far sentire un audio, perché fu ad anno zero, insomma è inutile. Sentiamo Mauro. Per rasserenare un po'. Io sapevo di essere in una trasmissione faziosa di comunisti, oggi scopro che è una trasmissione faziosa di froci, diciamo, e comunisti. Cioè, e non posso, sto parlando seriamente. Vi saluto. Ecco, vi saluto. Santoro, vi saluto. Clemente Mastella, buongiorno. Buongiorno. Era lei, Santoro, vi saluto. Sì. Prese, si alzò e sì. Se ne andò. Allora, noi partiamo da questo principio di domanda. Insomma, il direttore generale della RAI che dice certa TV contro danneggia il servizio pubblico. Lei che sicuramente insomma, non ha una posizione, insomma, forse c'è ancora qualche sassolino nella scarpa con Santoro, non lo so, insomma, se quella vicenda è passata. Che ne pensa? No, non è che io ho qualche sassolino. Io so soltanto che nel momento in cui alla faziosità ho replicato alzandomi e io ero stato indotto ad andare, anche perché i miei rapporti con Santoro sono stati fino ad ora sempre corretti, quando mi sono trovato in una specie di imboscata di faziosità, evidentemente l'unica cosa che potevo fare era quello di non parlare oppure di alzarmi e andarmene, ma fin là ci poteva essere tutta, cioè anche questo atteggiamento sfottente di Vauro. Il dato qual è stato? Che da allora loro sono legati al dito, tant'è vero che ogni settimana io ero punteggiato di veleni e veniva utilizzato permanentemente l'allora sostituto procuratore di Catanzaro per fatti inesistenti per i quali io non sono stato neppure mai condannato, mai, cioè completamente archiviato, e in cui si faceva riferimento a vicende che mi potevano riguardare, cose di Catanzaro in cui non c'entravo assolutamente nulla. Mm-hmm. Allora non è soltanto la faziosità, ma anche il modo con il quale il servizio pubblico è utilizzato per fini di parte, come in questo caso attaccare me, che era stato quello che ha fatto l'esa maestà rispetto a quello. Quindi che dovrebbe fare la RAI secondo lei? Togliere Santoro, lasciare Santoro, limitare? Non ho mai detto che bisogna togliere Santoro, chiedo. Per l'amor di Dio, non sono tra quelli che ritiene che bisogna chiudere trasmissioni, assolutamente no, però evidentemente trasmissioni che vengono fatte a una TV pubblica devono essere trasmissioni che contengono un'opinione diversa, un'opinione che sia anche diversa rispetto ai governi che ci sono, sia quando c'è un governo di centrodestra che di centrosinistra. Però al di là di questo, la faziosità mi pare che sia una cosa invasiva del telespettatore, cioè nel senso del prezzo che paghi il canone, non è una cosa che sia o può essere accettata. Questo è un tema interessante. Voglio ripartire da questo dopo il traffico. C'è con noi anche Filippo Facci e il senatore Pancio Pardi con Clemente Mastella. Il canone, ieri Feltri diceva verrebbe da non pagare il canone di fronte a queste trasmissioni. Dopo il traffico. Passa Tecofuel e Blue Motion Technology con eco incentivi. Scoprili su Volkswagen.it. Vi presenta Strade in diretta. Ancora la Sicilia in primo piano, alcune frane interrompono i collegamenti ferroviari ed autostradali, è chiusa anche la statale 114, la frana all'altezza di Sant'Alessio che coinvolge anche la linea ferroviaria, interrotti dunque i collegamenti sulla Messina-Catania. Chiusa l'autostrada 18 tra Rocca Lumera e Giardini Naxos, i mezzi pesanti vengono stoccati sulla Bretella San Filippo, in entrambe le direzioni ci sono le code in prossimità delle uscite obbligatorie. Un incidente sulla 22 del Brennero, 4 km di coda tra Carpi e l'innesto con l'autosole in direzione di Modena. Attorno a Bologna ci sono disagi per un incidente sulla tangenziale e le code tra il ramo verde e la nuova Bazzanese verso l'autosole. Un cantiere invece rallenta il traffico sul raccordo di Casalecchio verso la 14. C'è un cantiere proprio sulla 14 Adriatica, un chilometro di coda tra Pescara Nord e l'innesto con la 25 in direzione sud, dunque verso Taranto. Per il resto traffico intenso come sempre in queste ore del mattino, ma senza grossi disagi. 800 19 73 13 per segnalarci eventuali difficoltà durante il vostro viaggio. Noi ritorniamo tra un'ora. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Senatore Pardi di Italia dei Valori, lei ieri era lì, credo, con ascoltare il direttore generale Masi, che ha fatto questo, ha citato questa cosa del canone RAI, cioè non stupiamoci se poi c'è un 30% di italiani che non paga il canone RAI, per me basterebbe dire sono evasori, insomma è una tassa. Invece ha detto è una questione che forse il servizio pubblico non è, ma l'ha costata la questione di Santoro secondo lei? Io ho ribattuto dicendo che semmai se c'è il rischio che la gente non paghi il canone è perché la RAI ha dei telegiornali che non danno notizie, come il giornale di Minzolini che ha evitato accuratamente per settimane di parlare del giro di donne a pagamento nelle residenze del Presidente del Consiglio. I cittadini tendono a non pagare il canone, io prego che non lo facciano perché il servizio pubblico va sostenuto, tendono a non pagare il canone perché la televisione della RAI le trasmissioni della RAI in grandissima parte sono codine, sottomesse al potere, conformiste e non danno ma notizie. Mi scusi Pardi, non è che banalmente non pagano il canone RAI perché è un modo abbastanza furbo per evadere il fisco? Certamente non credo aspetto. Che c'è chi lo percepisce come una tassa ingiusta. Certamente. Facci, lei che ne pensa su questo? Cioè non si paga il canone RAI perché si valuta il servizio pubblico delle trasmissioni? Si paga il canone RAI perché siamo in Italia e c'è una percentuale, mi pare, superiore al 25% di persone che non lo pagano, anche perché lo giudicano talvolta, anche, sottolineo anche, perché giudicano quella una tassa oggettivamente assurda, e per questo per la semplice ragione che lo è, perché, lo dicevamo prima, si paga un canone come se avessimo un servizio pubblico che non è propriamente o completamente tale. Abbiamo di fronte una TV commerciale che non sa essere una vera TV commerciale, quindi abbiamo un prodotto spurio che non si capisce che cosa sia, se non uno strumento nelle mani dei partiti che faccia dire a una persona magari che il telegiornale di Minzolini invece è bello, è oggettivo e gli piace, per cui è contento di pagare il canone, oppure a Pancio Pardi faccia dire che sia uno scandalo perché invece secondo lui non è oggettivo, non dice le notizie, eccetera eccetera. Insomma, in un modo o nell'altro si partecipa alla guerra, e purtroppo non possiamo pagare il canone solo come nelle TV pay, dove insomma si paga a seconda del programma che si guardi. Quindi secondo me non si dovrebbe pagare e basta. Ci arriveremo entro un 100 anni. Non si dovrebbe. Mastella, io una cosa non l'ho capita. Perché dà fastidio la faziosità di Santoro? Perché dice, cioè, questo inficia secondo lei una trasmissione all'interno del panorama di tantissime trasmissioni? Una trasmissione che lo stesso Santoro dice è vero, insomma, è come ripeto, Giuliano Ferrara ha sempre detto, il giornalista vero è quello che si dichiara, che è di parte, che ha una posizione, che la porta avanti. Perché spaventa così tanto la faziosità di Santoro, tanto da mettere in dubbio il servizio pubblico della RAI? No, ma a me qualsiasi tipo di faziosità mi spaventa, non è servizio pubblico. Lei mi sta chiedendo di Santoro, dico Santoro. Cioè, nel senso che quello che immagino io del servizio pubblico, che poi è una versione soltanto italiana per molti aspetti, è una versione di garanzia rispetto alle minoranze, in modo particolare a quelli che, o anche alle maggioranze, ma soprattutto alle minoranze, questo è il dato democratico della libertà di informazione. Ora mi piacerebbe evidentemente che rispetto alla faziosità all'interno della missione fosse uguale faziosità, cioè nel senso di un dibattito a chi si dichiara più fazioso, per così dire, paradossalmente da una parte e dall'altra, e questo invece all'interno della missione francamente non c'è. Ora, tutto questo che venga fatto in nome del servizio pubblico, con molta franchezza, è un po' una cosa singolare per molti aspetti. Quindi questo è il dato. Ma ripeto, riguarda questa trasmissione o potrebbe riguardare altre trasmissioni? Non è che io sia contrario alle trasmissioni di inchiesta, per l'amor di Dio, cioè mi piace il giornalismo americano, visto che in questi giorni Santoro ne ha fatte di bellissime di inchieste, è uno dei pochi Santoro è uno dei pochi giornalisti che fa delle belle inchieste. Ma io non è che metto in discussione Santoro, la sua capacità, insomma, non è che, tanto per dire, non. Poi il mio collega, siamo entrati entrambi raccomandati alla RAI, io entrai per contraddicerlo, lui per il Partito Comunista, quindi come vede anche in questo ci accomuna molto, quindi, nel periodo in cui, però solo che io democristiano sembra raccomandato, chi entrava all'epoca al Partito Comunista non era raccomandato ed era bravo, quindi come vedete anche qua c'è una forma di faziosità che c'è stata storicamente e culturalmente talmente faziosità. Ho rispetto per Santoro, il problema è che in alcune circostanze Santoro ha rispetto degli altri, cioè li ripeto, che nella mia vicenda in quella circostanza ci fosse l'atteggiamento che c'è stato, certo ci potrò essere rimasto male, ma ci stava. Ma il continuare a utilizzare il servizio pubblico, a tentare di infangare me costantemente, quella è la faziosità che non sì, è. Sì, le dice, hanno proseguito. Filippo Facci. Esattamente, cioè l'utilizzo strumentale ogni volta senza che io ci fossi là. Cioè, come facevo a difendermi? Si diceva contrastare la faziosità. Per esempio, si è vociferato molto di Facci, di lei, come possibile contraltare o controcommento a Travaglio. Sì. Sapete che Marco Travaglio fa questo commento iniziale e si diceva, mettiamo Facci a controcommentare. Insomma, Facci e Travaglio non è che andate a prendere il caffè tutti i giorni al bar, ecco. Sì, una volta ci andavamo, tra l'altro, poi va bene. Ma io preciso questo. Anzitutto, io questa sera ci sarò ad Anno Zero, perché mandano in onda un'intervista registrata dove io, che sono ritenuto, oppure sono orientato nel centrodestra, potrò dire delle cose critiche nei confronti del centrodestra che altrove non avrei potuto dire. Quindi questa la dico a favore di Santoro, anche se loro mi strumentalizzeranno. Questo non mi impedisce assolutamente di dire che altrimenti Santoro andrebbe sanzionato o addirittura censurato o temporaneamente chiuso quando ha altri comportamenti. Perché un conto è essere fazioso ammetterlo pubblicamente senza pretendere di essere depositari della verità, e ok, dopodiché fare il proprio programma in un panorama dove io di Santoro ne vorrei 100. Questo è il problema, perché il problema è anche qual è l'alternativa a Santoro, questo è il vero problema, certi salotti cacciaroni che piacciono ai politici. Detto questo, quando però, e non è che voglio litigare, ma quando ad esempio nel corso della stagione Santoro invita prevalentemente un certo leader politico che Pancio Pardi conosce, prevalentemente, anzi sempre, tutti i giorni, fa aprire il programma da una persona, Travaglio, che è pubblicamente schierata con questo partito, allora uno dice, beh, voglio dire, un conto è essere faziosi, un conto è fare sulla famigerata TV del servizio pubblico un programma che a questo punto diventa schierato oggettivamente con un partito. Per cui, ripeto, dopodiché l'altro invitato è De Magistris, prevalente. Beh, insomma, io ripeto, rivendico il diritto di non avere opinioni per forza bianche o nere. Sì. Santoro mi va benissimo, al tempo stesso va confinato con le regole. Va punito quando va punito, ci dobbiamo, dopodiché viva Santoro. Ci dobbiamo fermare qui, non c'è tempo anche per litigare. E quindi grazie a Filippo Facci, al senatore Pancio Pardi, a Clemente Mastella, eurodeputato. Ci fermiamo, potete votare sul sito. Certa TV danneggia il servizio pubblico, Certa TV contro, ha detto il direttore generale della RAI su Anno Zero. Che ne pensate? Radio24.it, il sole24ore.com per votare. Ringrazio tutti e ci troviamo domattina alle 7.30.